mio sogno è il mare, che profondo e sin domare accarezza una guarda. E tu non la pensi mai, sotto l'aria di una vela non vuelves nunca. Por ti no esperaba jamás. Si no esperas, si no hay...